Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati all'appuntamento con la grande attualità internazionale e soprattutto con questa chiusura del ciclo di Nessun Luogo Lontano, questa prima settimana di programmazione dedicata alla stesura di un piccolo glossario a 5 temi forti, 5 chiavi, 5 lenti di ingrandimento per leggere, vedere e capire meglio la grande attualità internazionale. Pietro La Corte in regia, Mire Locchetti sono in redazione e in quest'ultima puntata della prima settimana parliamo di la lettera T come terrorismo. T come terrorismo, soprattutto terrorismo islamico, poi insomma bisognerebbe intenderci anche sulle parole, proprio su queste due parole noi inizieremo a usare la lima per comprendere se ha ancora senso utilizzare questo lessico per descrivere cosa? Beh, quella minaccia che una volta si chiamava Al-Qaeda, che poi è stata ribattezzata Al-Qaeda 2.0, insomma anche lì le definizioni si sono sprecate. Quindi se ha senso parlare ancora di terrorismo, questo cercheremo di capirlo quest'oggi, ma soprattutto dove sono, quali sono gli altri grossi gruppi che operano e dove operano. Si parla di ISIS, si parla di Al-Shabaab, si parla di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, ancora di Boko Haram in Nigeria. Tutto questo cercheremo di capirlo in questa puntata speciale di Nessun Luogo è Lontano, ma innanzitutto partiamo dai massimi sistemi, come si dice, cioè cerchiamo di mappare in generale il fenomeno. Lo facciamo con Lorenzo Vidino, che è analista esperto di terrorismo al Politecnico di Zurigo. Lorenzo Vidino, buongiorno. Buongiorno. Allora, è una puntata un po' difficile questa, perché T come terrorismo, intanto dobbiamo capire se ancora si può parlare di terrorismo riferendoci ad alcuni gruppi armati. Con te cerchiamo una missione quasi impossibile, cercare un filo rosso che lega i tanti gruppi insorgenti che vi sono in questo momento e che riempiono la cronaca degli esteri dei nostri giornali. Però vorrei partire facendo un passo indietro, e il passo indietro è: c'era una volta Al-Qaeda, che è stata la prima vera grande minaccia globale verso l'Occidente, e adesso Al-Qaeda dove è finita? Dove è finito questo grande brand? Ma diciamo che Al-Qaeda lotta in un certo senso per rimanere rilevante. Al-Qaeda come struttura originaria, quella che è diventata famosa con l'11 settembre 2001, è diciamo molto cambiata, ha molte difficoltà, esiste ancora, c'è il buon Ayman al-Zawahiri da qualche parte tra Pakistan e Afghanistan, che cerca in un certo senso di controllare quello che è diventato un franchise inizialmente di successo, ma poi in un certo senso vittima del proprio successo, in quanto adesso vediamo alcuni rami ufficiali e alcuni gruppi che si rifiutano di avere in alcun modo a che fare con Al-Qaeda, al quale magari riconoscono un debito storico, ma dal quale non si sentono controllati, non si sentono vincolati e reclamano un'indipendenza operativa. Non sono però poi sicuro, guardando un attimino queste dinamiche con un ampio respiro, che sia necessariamente un qualcosa che i fondatori di Al-Qaeda fossero necessariamente contrari. Al-Qaeda in arabo vuol dire la base. La frase era stata creata da Abdullah Azzam perché vedeva il gruppo come una base per il movimento jihadista globale. Sì. E uno dei più grandi storici ideologici di Al-Qaeda, che era Abu Musab al-Suri, diceva: Al-Qaeda non è un'organizzazione, né lo vogliamo che sia, è un movimento, è un'idea, è una chiamata. Quindi il fatto che adesso esistano altri gruppi che rifiutano il controllo qaedista, sì, in un certo senso potrebbe far parte di una visione generale, insomma l'ideologia è comunque un qualcosa che accomuna questi gruppi. Sì. E poi esistono spaccature interne, è un problema indubbiamente da un punto di vista tattico, e può creare dei problemi al movimento, ma parliamo di un movimento a livello globale che esiste e che persegue obiettivi più o meno simili. Sì. E fra l'altro, se uno va a riguardare ad esempio la storia dello Yemen, no, che è legato a filo rosso sul tema Al-Qaeda con l'Afghanistan,

Esistono poi schegge impazzite che addestrate da questi gruppi possono tornare e compiere attentati. Quello di Bruxelles è solo uno dei vari attentati che sono stati preparati da questi soggetti, ce ne sono stati altri almeno tre sventati in Europa negli ultimi mesi. E poi è chiaro che comunque la destabilizzazione della regione, adesso non vorrei comunque esagerare perché comunque esistono varie forze che non vedo il Medio Oriente completamente conquistato da ISIS e altri gruppi, assolutamente, però comunque la destabilizzazione che sta portando ha delle conseguenze importantissime dal punto di vista della sicurezza e dal punto di vista economico e politico per l'Occidente. E solo il tempo, insomma, ci permetterà di capire quanto queste influenze andranno a impattare eventualmente anche nell'Occidente. Grazie mille a Lorenzo Vidino, esperto di terrorismo al Politecnico di Zurigo. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Allora, queste le parole di Lorenzo Vidino del Politecnico di Zurigo, e poi, cari ascoltatori, e poi tutto il mondo si accorse che esiste un paese che si chiama Nigeria e che c'è un gruppo armato che si chiama Boko Haram. Perché? Perché il rapimento di quelle oltre 200 studentesse scatenò poi una vera e propria campagna mediatica. L'hashtag era Bring Back Our Girls, riportate a casa le nostre ragazze. Addirittura gli Obama si impegnarono in prima persona. Come spesso accade nel mondo dell'informazione, alcune notizie inspiegabilmente, o anche si potrebbe spiegare molto facilmente, assurgono agli onori delle prime pagine, e quindi si sono riaccesi i riflettori sulla Nigeria. In realtà forse per alcuni di noi non si erano mai spenti, però episodi come il rapimento delle 200 studentesse sicuramente aveva attirato anche il pubblico magari non troppo avvezzo alle vicende africane. Tra l'altro, vicenda mediatica che, lasciatemi passare il termine, ha qualcosa di stucchevole, perché 200 ragazze rapite di fronte a, andiamo a stilare la lista, l'elenco degli attacchi che Boko Haram ha portato negli ultimi anni, sono, con tutto il rispetto per le 200 ragazze rapite ovviamente, soltanto l'ultimo delle azioni. E se vogliamo guardare proprio dentro casa nostra, quante centinaia di ragazze nigeriane ci sono che sono state rapite dalle organizzazioni appunto nigeriane e messe sulla strada? Non è anche quello episodio che dovrebbe scandalizzarci e portare a chissà quale campagna. Vabbè, polemiche a parte, allora andiamo direttamente in Nigeria. Vi propongo la chiacchierata che ho fatto con Sheu Sani, che è un attivista molto, molto sul pezzo per ciò che riguarda la questione Boko Haram, perché è stato fra coloro ed è fra coloro che cercano un accordo, una mediazione, un dialogo con appunto Boko Haram. La prima domanda che gli ho fatto è: il governo ha le capacità e gli strumenti per gestire questa minaccia? There are two ways you can confront an insurgency. Per affrontare un'insurrezione ci sono due strade: o si usa la forza o il dialogo. Negli ultimi anni il governo nigeriano ha usato solo la forza, senza ottenere risultati, ma solo una serie di violazioni dei diritti umani per mano dell'esercito nigeriano. Negli ultimi anni molte persone innocenti sono state uccise, molte case sono state distrutte, ed è stata applicata una politica di repressione collettiva contro chiunque fosse sospettato di simpatizzare o supportare Boko Haram. Il processo di dialogo è stato sabotato da alcune correnti interne al governo che sostengono la via della forza. I problemi del governo sono due: la corruzione e l'incapacità dell'esercito di opporsi a Boko Haram. Molti soldati non hanno né addestramento né mezzi adeguati per essere efficaci contro l'insurrezione. Lo dico chiaramente: il governo nigeriano non ha nessuna possibilità di combattere Boko Haram a causa della corruzione endemica della leadership politica. L'esercito nigeriano era uno dei migliori del continente. È stato coinvolto in molte operazioni di peacekeeping in altre nazioni africane negli ultimi 30 anni, ma qui, all'interno dei nostri confini, non siamo riusciti a garantire la sicurezza di persone innocenti che vogliono soltanto vivere in pace. We have failed to provide security for our people, and particularly even for younger generation of Nigerians who simply want to live in peace and be allowed to build their future. Chi sta traendo beneficio, dottor Sani, da questa insurrezione, anche in termini politici? The first people taking benefit from this insurgency are security contractors and defense entrepreneurs and also top ranking security personnel. I primi a trarne vantaggio sono i contractors della sicurezza, gli imprenditori del settore difesa e i partner degli alti gradi dell'esercito, che vogliono approfittare dei contratti governativi da centinaia di milioni di dollari, ma che paradossalmente finiscono per favorire l'insurrezione. La seconda categoria che ne trae vantaggio è quella dei politici, sia di governo che di opposizione, perché sfruttano la situazione. Dopo ogni attacco, il governo accusa l'opposizione di simpatizzare per Boko Haram, mentre l'opposizione accusa il governo di debolezza. Non esiste solidarietà tra le diverse parti politiche. La terza categoria che trae vantaggio da questa situazione è formata dalle persone che vorrebbero dividere la Nigeria in due parti. So I think these are the forces that are at play here that have helped in sustaining the insurgency. E veniamo, Sheusane, al ruolo della religione. Quanto essa è solamente una copertura? Quanto riflette invece la divisione fra nord e sud, quindi fra cristiani e musulmani? Well, in Nigeria is largely divided between a predominantly Muslim north and a largely Christian south. La Nigeria è divisa in due zone. Il nord è per lo più islamico e il sud ha maggioranza cristiana. Questa divisione ha portato a conflitti e tensioni. Nel 1914, quando la Gran Bretagna unificò la nazione, sono rimaste persone, sia nel nord sia nel sud, che continuano a non volere l'unione del paese. Una situazione simile a quella del Belgio o del Sudan. La Nigeria è un grande paese, con 160 milioni di abitanti, e la religione è e rimane una questione molto sensibile. Boko Haram viene dal nord del paese, ma non bisogna dimenticare che abbiamo molte altre sette islamiche in quella zona. Sunniti, sciiti, tradizionalisti. Molti di questi gruppi vorrebbero uno Stato islamico, ma non tutti si spingono a uccidere persone innocenti. La violenza religiosa è un problema considerevole degli ultimi 50 anni. Ora l'insurrezione sta buttando benzina sul fuoco, perché la speranza di Boko Haram è ottenere il consenso di queste sette islamiche attaccando cristiani e musulmani moderati. Posso dire che ci sono due tipi di violenze religiose in Nigeria, quella storica tra cristiani e musulmani e quella condotta da Boko Haram. Tutto ciò sta mettendo a dura prova la stabilità, l'unità e la pace nel paese. There are two types of religious violence in Nigeria. There is the one between Muslims and Christians. And there is the one that is led by an insurgent group. And all these things here is stressing and straining the unity, the stability, the peace and the freedom of all Nigeria. Infine, Sheusane, l'ultima domanda riguarda il ruolo giocato dai governatori locali delle zone del nord, che sono le zone, a parte alcuni attacchi ad Abuja, fondamentalmente che sono colpite dai miliziani di Boko Haram. Tutto il nord-est, parliamo della zona di Kano, parliamo della zona di Maiduguri. Qual è il ruolo dei governatori di queste città? The governors in the north have a role to play, to use the resources available at their disposal. I governatori del nord hanno un ruolo da giocare. Devono mettere in campo le risorse che hanno a disposizione per risolvere questioni cruciali come la povertà, l'analfabetismo, la mancanza di educazione e il sottosviluppo. Purtroppo però c'è troppa corruzione nella classe politica nord nigeriana, a cui importa solo l'ambizione personale e il desiderio di usare il potere per arricchirsi. I leader del nord dovrebbero invece collaborare e discutere di come risolvere insieme il problema di Boko Haram. Need to come together and work out the possibility of addressing this problem. Questa è l'analisi di Sheusane, attivista e presidente del Civil Rights Congress in Nigeria. Nessun luogo sarà lontano, subito dopo una piccola pausa. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Quinta e ultima puntata di questa prima fase di Nessun Luogo Lontano, in cui stiamo stilando un glossario minimo per poterci orientare nei grandi eventi che accadono al di fuori dei nostri confini. Siamo partiti lunedì scorso da A come armi, stiamo chiudendo con la T come terrorismo, anche se, come state iniziando a comprendere, forse anche il nostro lessico dovrebbe cambiare nell'analizzare quelli che sono i gruppi che maggiormente preoccupano nelle varie zone calde del globo al di fuori dell'Italia. E dunque Lorenzo Vidino da Zurigo ci ha aiutato a comprendere quali sono i tratti comuni dei nuovi gruppi terroristici, nuovi più o meno, nuovi e vecchi gruppi, continuiamo a chiamarli terroristici, ma appunto diciamo gruppi di insorti, possiamo dire così. Ci ha aiutato a capire quali sono i tratti comuni. Ci siamo spostati ad Abuja, in Nigeria, per parlare con Sheu Sani delle caratteristiche precipue di Boko Haram, che ha surto agli onori della cronaca anche grazie a quella campagna Bring Back Our Girls, campagna dal tenore insomma un po' stucchevole a mio parere, insomma l'ho già detto, dopo tutti gli attacchi di Boko Haram questa mi è sembrata un eccesso di mediatizzazione, però a volte eventi anche come questi servono a accendere i riflettori e a porre attenzione. Rimaniamo in Africa, però andiamo dall'altra parte, sull'altra costa, andiamo a Nairobi per parlare di Al-Shabaab, che è un'altra formazione che tanto preoccupa analisti e non solo, e quindi do il mio buongiorno e benvenuta Nessun Luogo Lontano a Emilio Manfredi. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno Giampaolo. Emilio Manfredi è ricercatore consulente fra gli altri per International Crisis Group, ma vanta un passato da collega, da reporter, e quindi mi piace averlo ospite perché unisce, come dire, le due anime, quelle dell'analista e quelle del ricercatore, e invece del giornalista, quello che va a caccia di storie sul campo. E con lui proseguiamo la discussione nell'analizzare invece questo gruppo che chi mi segue ha imparato un po' a conoscere, Al-Shabaab in Somalia. Partiamo dalla prima domanda, quella più base, no? Partiamo dal linguaggio. Ha senso, Emiliano, chiamarli terroristi, quelli di Al-Shabaab? Ma ha senso se si vuole evitare di porsi delle domande più profonde. Che cosa voglio dire? Al-Shabaab in Somalia nasce nel momento in cui un gruppo di corti, di businessmen e politici islamisti nel 2005 riesce a prendere il controllo del territorio di quasi tutta la Somalia centro-meridionale dopo anni di atomizzazione in piccoli micro feudi. E questo gruppo, l'Unione delle Corti Islamiche, cerca di dare anzitutto stabilità secondo le regole della Sharia alla Somalia e di mettere in sicurezza il territorio. Chiaramente la cosa non viene vista molto bene da vari, dagli Stati Uniti e dagli altri alleati occidentali, così come dalle potenze regionali, l'Etiopia in primo luogo, che temevano una forza islamista in Somalia capace di riprendere il controllo. Sì. Quindi l'Etiopia, con l'accordo e il beneplacito della comunità internazionale, soprattutto degli Stati Uniti, entra in Somalia, sconfigge le corti islamiche, e da lì che cosa sopravvive? Sopravvive e prende grande rilevanza nel quadrante politico somalo Al-Shabaab, cioè l'ala più radicale di quelle corti islamiche, che di conseguenza fa sue tutta una serie di rivendicazioni o di scontentezze che la popolazione somala aveva e ha tuttora nei confronti degli interventi esterni volti a imporre in qualche misura una soluzione al problema somalo, e sfrutta queste scontentezze e le utilizza per garantirsi sempre maggiori spazi di potere. Dopodiché la presenza appunto in Somalia sempre maggiore di forze regionali come l'Etiopia, poi il Kenya, poi Djibouti e l'Uganda, supportate sia dalle Nazioni Unite che soprattutto dagli Stati Uniti per quello che riguarda proprio il controterrorismo militare puro, e dall'Unione Europea, dall'Inghilterra, dal Regno Unito per quello che riguarda la stabilizzazione politica, ha fatto sì che il problema si sia anche mano a mano esteso e sia traslato a tutti i paesi limitrofi, giungendo a gli attacchi e le bombe, le stragi che abbiamo visto accadere, insomma, dal 2010, quando sì, Al-Shabaab attaccò in Uganda dei ristoranti in cui si vedeva la finale dei mondiali. Sì. Questa parte sicuramente si può richiamare, si può chiamare terrorismo, ma se ci si limita a quello e non si analizzano le ragioni, probabilmente non si fa altro che alimentare poi la violenza che questi gruppi di cui questi gruppi sono portatori. Ecco, in parte alcuni temi li hai già toccati, però noi a inizio trasmissione abbiamo trovato un filo comune tra questi gruppi, che sono, tra le altre cose, un forte radicamento al territorio, e qua mi sembra che ci siamo, un sapiente utilizzo della comunicazione e della propaganda, qui forse, non lo so quanto Al-Shabaab sia maestra, un obiettivo che innanzitutto è locale, è provinciale, cioè questi gruppi, Boko Haram, Al-Qaeda nel Maghreb Islamico, Al-Qaeda nel Paese Largo, intanto si occupano del qui e ora e poi eventualmente parliamone. Quindi un dimenticare per un momento quello che è il jihad globale. So che però tu ti stai occupando in particolare dei giovani, del reclutamento delle nuove milizie, e questo forse ci aiuta a capire, parlare di questa parte qua, dell'appeal che può avere sulla popolazione un gruppo come Al-Shabaab, e questo forse è uno dei punti cardine, no, da analizzare. Ma sì, sicuramente, è uno dei punti cardine che forse costituisce anche un altro filo rosso che unisce questi gruppi, almeno nell'Africa subsahariana, che è proprio la capacità di appeal sui giovani e sui giovanissimi, e per ragioni che hanno, secondo me, poco rispetto anche alle mie ultime interviste con chi poi si avvicina a questi gruppi, ha molto poco a che fare con la jihad globale o il richiamo ad Al-Qaeda, ed ha molto a che fare con appunto delle problematiche socio-economico-politiche di base, della disoccupazione, della mancanza di risorse o della cattiva allocazione delle risorse in alcuni territori più sofferenti della Somalia, ma anche dei paesi della regione, e che si sono riprodotti negli anni senza che gli stati centrali e i paesi donatori sono stati mai capaci o abbiano mai veramente voluto dare una risposta a queste scontentezze, appunto, e adesso stanno esplodendo anche perché la modernità porta delle nuove sfide, l'urbanesimo iperaccelerato anche in queste zone del continente africano, sì, porta delle nuove sacche di emarginazione, e proprio in queste sacche di emarginazione, in questa richiesta di risposte che non vengono mai date, poi gruppi come Al-Shabaab o come Boko Haram nell'altro sì, quadrante del continente trovano facile germinazione. Sì. Fra l'altro tu, Emilio, stai a Nairobi, che ha un bel cordone umbilicale, bello solido, no, con la Somalia, e dall'altro lato Nairobi ha vissuto anche momenti di paura, perché la minaccia veniva proprio da lì, e sta in una città che ha delle contraddizioni, dei paradossi giganteschi, perché è una metropoli enorme, con all'interno slam, con all'interno paradossi, contraddizioni, grandi disparità anche economiche. La tua esperienza diretta da questo punto di vista, urbana, non so come dire, metropolitana, ecco, come si può riassumere? Ma che qui non si vive molto bene, che le soprattutto per chi non ha importanti risorse economiche, e che la richiesta negli anni è stata quella di dare una soluzione, di dare nuove opportunità a questa società che è composta principalmente appunto da giovani e da giovanissimi. E le risposte non ci sono state per due ragioni fondamentali: una corruzione elevatissima e una cattiva governance, se posso usare sì, questo termine, che poi produce una pessima distribuzione delle risorse e quindi inesistenti opportunità di mobilità sociale o di mobilità anche socioculturale, sì, se vogliamo, per i giovani. Sì. Dunque, che cosa succede? Succede che si passa dalla criminalità comune a per quei gruppi che possono essere coinvolti in una retorica, in una narrativa di tipo islamico-religioso, appunto al pensare che qualcuno ti offre una madrasa gratis anziché non poter andare a scuola e dover andare a lavorare a 7 anni, $100 e poi eventualmente anche un Kalashnikov con la promessa che le cose cambieranno, diciamo che il conto poi torna un po' in questo senso. La capacità di penetrazione è veramente, per la mia esperienza personale, qui sì, in città e soprattutto poi nella costa o nelle città della costa del Kenya, dove la concentrazione di musulmani è molto molto più alta, passa proprio per questi piccoli fattori e questa mancanza costante di risposte o di risposte che sono sempre dilazionare il cioè rimandare il problema e dilazionarlo nel tempo con delle affermazioni assurde. Poi chiarissimo. Fra l'altro, Emilio, hai parlato di corruzione e di malgoverno, che sono esattamente le parole che ha usato Sheusani per descrivere quelli che sono i problemi, le cause scatenanti poi del proliferare di Boko Haram e del suo appeal verso una certa parte della popolazione, quella più povera, quella meno colta, che non va a scuola e che, appunto, guarda, hai dato proprio la ricetta esatta, questo purtroppo, questo tragico filo rosso che lega le due coste africane. Grazie mille Emilio Manfredi, ricercatore consulente fra gli altri per International Crisis Group e Human Rights Watch. Buona giornata Emilio, buon lavoro, alla prossima. Buon lavoro anche a voi, grazie. Nessun luogo è lontano. Ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, questo è Nessun Luogo Lontano, io sono Gianpaolo Musumeci, cercateci su Facebook Nessun Luogo Lontano - Radio 24, cinguettate all'indirizzo Giampaz e vi risponderò in questa puntata speciale, che è partita da una domanda, anzi da un'affermazione: c'era una volta Al-Qaeda e poi il terrorismo 2.0, 3.0, insomma come volete, poi le definizioni si rincorrono. Che cosa è diventato? Beh, tanti gruppi armati, tanto radicamento sul territorio, forse un dimenticarsi per un momento di una lotta globale verso il grande nemico occidentale, un focalizzarsi verso singoli teatri, e regimi locali. In futuro chissà se quel brand di Al-Qaeda, che adesso appare un po' appannato, appare un po' eroso dal tempo, e quella figura ormai quasi mitologica di Bin Laden torneranno ad avere quel potere, quella forza che per il momento appunto appare leggermente sfocato. Allora, abbiamo parlato di Boko Haram in Nigeria, abbiamo parlato di Al-Shabaab in Somalia, andiamo in Iraq perché vogliamo tratteggiare anche questa formazione che si chiama ISIS. Noi l'abbiamo fotografata così. Lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante è un gruppo jihadista attivo in Iraq e Siria. Sorto nell'aprile del 2013 come costola di Al-Qaeda in Iraq, ma in seguito sconfessato dagli stessi qaedisti, è ora uno dei maggiori gruppi jihadisti che combattono contro le forze di Assad in Siria. Non si conoscono le dimensioni precise dell'organizzazione, ma si stima vi siano arruolati centinaia di combattenti, compresi molti jihadisti stranieri. Il gruppo è guidato da Abur Bakr al-Baghdadi, nato con ogni probabilità a Samarra, a nord di Baghdad, nel 1971. La carriera di al-Baghdadi comincia nel 2003, quando si unisce all'insurrezione contro le truppe statunitensi, ma è nel 2010 che emerge come leader di Al-Qaeda in Iraq, ottenendo successi militari e distinguendosi sul campo per le doti di comandante e stratega. L'organizzazione dichiara di avere tra le sue fila anche combattenti europei, statunitensi, provenienti dal Caucaso e dal resto del mondo arabo. A differenza degli altri gruppi di ribelli siriani, l'obiettivo di ISIS è istituire un califfato che unisca Siria a Iraq. Allora, questa è la nostra brevissima e sintetica istantanea che abbiamo tentato di fare su ISIS. Nima Baeli, però è sconfessabile, correggici, anzi bacchettaci se c'è qualcosa che vuoi correggere o aggiungere. Sì, buonasera a tutti. Intanto possiamo dire che è vero, oramai l'ISIS, più che essere un'organizzazione terroristica nel senso di Al-Qaeda, di Bin Laden, si è evoluta come una milizia armata sul territorio. E quindi le varie priorità che per esempio Al-Qaeda aveva di lotta nei confronti degli Stati Uniti o comunque nei confronti dell'imperialismo occidentale sono state rivisitate dallo Stato Islamico. È vero che lo Stato Islamico si pone, e questo è il nuovo nome che si è dato appunto Abu Bakr al-Baghdadi quando qualche tempo fa ha dichiarato appunto il nuovo Stato. Dicevamo appunto, teoricamente questo nuovo califfato avrebbe l'aspettativa di riconquistare tutte le terre che in passato erano state islamiche, quindi dall'Andalusia fino all'Indonesia. Sì. Tuttavia, al momento attuale, il loro obiettivo è più focalizzato su lotte regionali, ovvero sì, buttare giù i vari regimi islamici o apostati, e per loro gli apostati sono sia gli alawiti siriani come anche gli sciiti iraniani, sì, e mettere a posto appunto di tutte queste nazioni o di queste leadership che secondo loro corrotte un nuovo, appunto, un nuovo sistema. Sì. Nima Baeli, ricercatore analista per l'IMES e per l'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, ci sta aiutando a capire meglio obiettivi, finalità, struttura, format, passatemi il termine, di ISIS. La struttura di questo gruppo, come possiamo inquadrarla? È estremamente verticistica, cioè al-Baghdadi decide tutto lui, oppure insomma c'è un comando diffuso? Aiutaci a capire meglio. Allora, in realtà al-Baghdadi, di cui erano diffuse pochissime immagini fino a quando poi non ha dichiarato, appunto, non ha fatto il sermone di apertura, sì, con l'inizio del mese del Ramadan a Mosul. La struttura dell'ISIS è molto diffusa, ovvero c'è Abu Bakr al-Baghdadi che è appunto il califfo, poi c'è un suo vice che è Abu Muslim al-Turkmani e lui è deputato a fare supervisione su tutte le questioni relative alle province dello Stato Islamico irachene, sì, e poi oltre a quello c'è un gabinetto, c'è un consiglio dei ministri, tra virgolette, che loro hanno creato, con vari personaggi, diciamo c'è Abu Abdul Qadr, che è... altra cosa interessante che bisogna notare, buona parte di tutto il gabinetto è composto da persone irachene, per cui in realtà siriani o di altre nazionalità sono poche. Nel gabinetto ci sono tutte le varie funzioni, c'è la funzione di gestione del territorio, c'è la funzione di gestione dei vari suicidi, c'è chi è addetto alle prigioni, sì, chi è addetto al welfare, sì, e in più poi appunto ci sono i vari governatori che sono stati già da adesso nominati, per cui c'è, diciamo, i governatori della provincia di Saladin, i governatori anche delle province, quelle che verranno poi conquistate in futuro, per cui anche appunto le province di Baghdad, di Kirkuk, che allo stato attuale non sono, sì, state conquistate appunto dall'ISIS. E in più poi c'è un consiglio ristretto di 3 persone, che è proprio invece il gabinetto militare, che è costituito da Abu Shema, Abu Suja e Abu Kifa. E loro 3 invece sono appunto i 3 addetti alle azioni militari specifiche. Sì. Dalle tue parole, Nima Baeli, traspare immediatamente che questa organizzazione, se non strutturata, quantomeno molto, molto logica, molto parcellizzata, molto funzionale, nel senso, no, di a persona corrisponde funzione, e mi sembra molto distante da quello che era Al-Qaeda all'inizio, no? Cioè che era un movimento, che era un'idea, che era un simbolo anche, che era qualcosa che poteva viaggiare dallo Yemen all'Afghanistan. Qua siamo di fronte a qualcosa di diverso, nel momento in cui io dico già tu farai il governatore della prossima provincia che conquisteremo, già si sta parlando di terreno, di risorse petrolifere, guarda un po', no? Loro, io reputo che personalmente l'ISIS sia un'organizzazione molto opportunistica. L'ISIS nasce in origine in Iraq, come avete giustamente voi ricordato nel vostro stacco, sì, soltanto che dopo essere stata repressa appunto a seguito delle azioni statunitensi, hanno trovato poi un elemento favorevole in Siria e sono andati in Siria. adesso che nell'ultimo anno in qualche maniera sono sulla difensiva in Siria per causa appunto delle forze armate siriane che stanno riconquistando territorio, hanno scoperto che ci sono di nuovo delle aree vuote, tra virgolette, in Iraq, e sono ritornati in Iraq. Sì, sì, sì, capisco. L'opportunismo anche in questo senso, nel cogliere l'opportunità dove c'è un vuoto, andarlo a riempire per... Il vuoto che loro hanno trovato in Iraq in realtà è un vuoto molto importante, perché loro stanno giocando sulle aspettative che la minoranza sunnita irachena, certo, aveva, e che con l'attuale governo Maliki sono state disattese. Certo. Per esempio nella conquista di Mosul, noi diciamo ISIS spesso, però in realtà è un ombrello di varie organizzazioni che stanno sotto l'ISIS. Sì. Un'organizzazione, scusate, così strutturata, come si finanzia? Loro in origine venivano finanziati dai doni o comunque dalle opere di beneficenza che ricchi cittadini dei paesi degli Emirati del Golfo Persico fornivano. Se non che in base poi appunto a seguito della crescita dell'organizzazione, a seguito della conquista di aree siriane, loro hanno ampliato le loro fonti di approvvigionamento sia vendendo beni archeologici che vengono rubati in Siria, ma fondamentalmente dopo che loro sono riusciti a conquistare i pozzi petroliferi della Siria orientale, della zona di Deir ez-Zor. E buona parte appunto dei loro finanziamenti attuali sono tramite appunto queste la produzione di petrolio e di energia che vendono anche, ironia della sorte, al governo siriano centrale. Poi a seguito della conquista di Mosul e delle aree irachene si stima che loro adesso abbiano un capitale fra soldi contanti e armamenti che hanno preso le forze armate irachene approssimativo di 2 miliardi di dollari, per cui verosimilmente oggi come oggi loro sono l'organizzazione, usiamo questo termine, terroristica, sì, più ricca che esista oggi come oggi al mondo. E numeri sì che danno da pensare, non c'è dubbio, un'organizzazione che dà da pensare, però poi quando ci siamo di fronte, quando studiamo, analizziamo queste organizzazioni, poi c'è sempre il cane sciolto, che è stato uno spettro evocato da Lorenzo Vidino all'inizio di questa trasmissione, quando insomma io dicevo, se queste organizzazioni hanno obiettivi regionali, gli Stati Uniti, l'Occidente, l'Europa in generale, l'altro lato del mondo, per essere scorrettamente manichei, può starsene tranquillo, perché se loro sono impegnati a occupare pozzi petroliferi, a far cadere i regimi a loro non amici nelle loro regioni, nelle loro aree, insomma, allora noi possiamo stare tranquilli. E Vidino dice sostanzialmente no, attenzione, questa è una visione molto miope, perché adesso si occupano magari di Siria e Iraq, ma un domani chissà, senza tener conto che un singolo cane sciolto, che 10, un comando, una cellula di 10 persone che hanno fatto, ma si sono fatti le ossa in Iraq e in Siria, potrebbero tranquillamente tornare in Europa e lì colpire. La tua opinione da questo punto di vista, Nima? Io reputo che, fra l'altro, appunto adesso bisogna sempre considerare le varie opzioni. C'è anche un'ipotetica opzione per cui sia l'ISIS siriano che l'ISIS iracheno vengano poi battuti dai governi nazionali. E ipoteticamente un momento in cui queste organizzazioni vengono battute dai governi nazionali con l'appoggio magari degli Stati Uniti o degli iraniani, questi cani sciolti di cui appunto abbiamo accennato prima potrebbero ritornare in patria. Sì. E quindi una volta ritornati in patria con anni o comunque anni di esperienza sul territorio, abituati ad azioni spesso truculente, come abbiamo visto nei vari video, sì, per cui probabilmente anche con un equilibrio psichico non particolarmente forte, sì, potrebbero tranquillamente, sia in forma di cani sciolti, in forma di network, poter operare contro appunto le loro nazioni di origine. Sì. Ed è quello che spesso appunto molte nazioni medio orientali ricordano all'Occidente, per esempio il governo di Assad o anche appunto la Repubblica Islamica Iraniana spesso ricordano questo all'Occidente o agli stessi sauditi, che queste organizzazioni che spesso vengono in qualche maniera finanziate o comunque ben viste dall'Occidente o delle nazioni arabe del Golfo Persico potrebbero poi a breve ritorcersi contro loro, sia in forma di cani sciolti come anche in forma di strutture più organizzate. Sì, sì, sì, in una sorta insomma di nemesi storica, qui la storia anche recente si è un po' abituato. Ringrazio Nima Baeli, ricercatore analista di Limes, e per ISPI per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro, Nima. Grazie a voi, arrivederci. E quindi questa ultima puntata di questa prima settimana di programmazione di Nessun Luogo Lontano, in cui abbiamo analizzato anche il concetto di terrorismo che abbiamo visto, l'abbiamo un po' smussato, l'abbiamo radicato un po' più sul territorio, ci siamo dimenticati un po' di Al-Qaeda, insomma abbiamo cercato di rinverdire quei concetti che possono essere utili per il proseguo poi di tutto questo mese di programmazione di Nessun Luogo Lontano qui su Radio 24. Non mi resta che ringraziare Mira Lucchetti in redazione, Pietro Lacorte in regia, voi per essere stati all'ascolto. Noi ci risentiamo lunedì in diretta qui da Viale Monterosa. Intanto un saluto da Gianpaolo Musumeci.